Quando Proust, in All'ombra delle fanciulle in fiore, vuole parlare del modo in cui un adolescente perde il suo tempo e si consuma in una vuotaggine che già ai suoi tempi sembrava non dovesse aver più fine, beh, ad un dato momento interrompe il suo bel francese ed usa l'espressione far niente direttamente in italiano. Sull'uso di un'espressione in una lingua all'interno di un testo formulato in tutt'altra lingua ormai la sappiamo lunga. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, o è lo snobismo dello scrittore che vuole essere alla page, come il sottoscritto mentre pronuncia per l'appunto alla page, o è una presunzione di intraducibilità dell'espressione dalla lingua di partenza nella lingua d'arrivo, o è un'assunzione implicita che più o meno nascostamente si vuole aggiungere al significato letterale. Proust scrive All'ombra delle fanciulle in fiore fra il 1908 e il 1912, forse lo scorpora almeno parzialmente dal primo volume della sua Recherche du temps perdu, e all'epoca doveva avere idee chiarissime sull'indole del popolo italico. Avrà pur fatto anche lui le debite eccezioni, ma se doveva contrassegnare in modo chiaro e distinto un nostro primato, non esitava, scrivendo far niente in italiano nel testo, ad attribuircene, diciamo così, uno discutibilissimo di caratteri. Molto amato soltanto dai pochi ed estremisti seguaci del diritto all'ozio di Paul Lafargue, il genero di Marx, ma detestato ed esorcizzato dalla buona borghesia e dal proletariato operoso. Più o meno negli stessi giorni, qualche giorno prima, esattamente nel 1907, Benito Mussolini cerca di elevare le proprie condizioni sociali e, provandole tutte, mira all'abilitazione per l'insegnamento del francese e del tedesco nelle scuole superiori. Affronta dunque gli esami alla Regia Università di Bologna e per prima cosa si trova alle prese con il tema d'italiano, obbligatorio per tutti, il cui titolo era il seguente: il perder tempo a chi più sa più spiace, disse Dante. Con quanta ragione lo disse? Letto e ponderato il problema, Mussolini si mette al lavoro e sforna una dotta trattazione che, rilevando come negli ultimi tempi in Italia si sia notata una reazione contro le concezioni grettamente utilitaristiche del tempo e della vita umana, giunge alla conclusione che, essendo il tempo una categoria dello spirito, è impossibile perderlo, mentre è possibile e biasimevole, secondo i casi, trascurare l'impiego migliore della propria vita. Utilitaristi o idealisti, costruttori di ponti o cenobiti, operai del braccio o asceti, dice ancora Mussolini, non possono però divergere nel dare un valore supremo al tempo in rapporto alla nostra vita. La risposta alla sferzante ironia di Proust nei confronti del popolo italico è dunque già in nuce, per non dire induce, se mi si può perdonare la battuta infame. Si potrebbe affermare che in quell'antico svolgimento di tema d'esame ci sono i prodromi mussoliniani della futura laboriosità energica e sudata che segnerà l'autarchica risoluzione. L'avesse scritto, che so, nel 1938, quando Starace vietava l'uso del verbo insediarsi riferito ai dirigenti del regime perché implicava potere ma non azione, o quando sostituiva la posa della prima pietra, troppo statico, con il primo colpo di piccone, più dinamico, più fascista, l'avesse scritto nel 1938 All'ombra delle fanciulle in fiore, Proust non avrebbe più potuto scrivere far niente in italiano nel testo. Opinioni e sottigliezze si nutrono di un determinato clima ideologico. Anche le minime espressioni a volte rivelano opzioni di valore, atteggiamenti e propositi fin inconsapevoli, che possono poi attecchire e fruttare non appena sia andata costituendosi la nicchia ecologica giusta. Un complesso di inferiorità. È un complesso di inferiorità poi coltivato per anni, come spiega Freud, tende a confondersi con un forte senso di colpa. con un forte senso di colpa, da cui poi tutti i guai che seguono, sia a livello individuale che collettivo. Il tema completo svolto da Mussolini, come una sapida antologia delle disposizioni del perentorio Starace, lo potete trovare nell'archivio segreto di Mussolini di Arrigo Petacco. Soddisferà, testè uscito, soddisferà la curiosità di molti sapere che valutazione ha ricevuto questo tema da parte della commissione d'esame. 6 più è stato il voto, 6 più, con l'aggiunta tuttavia di un impietoso giudizio. Mente squilibrata, ha sentenziato l'esaminatore. Come di che ci venga dalla nostra scuola, non c'è da gioirne. A dire il vero, a mio avviso, il tema è ottimamente svolto. La bollatura professorale è presumibilmente da addurre al fatto che del candidato avevano prima letto il curriculum o comunque sapessero qualcosa dei suoi progetti rivoluzionari. Istituzione che, come al solito, allora si difende e non acutissimamente illuminata profezia.